fare una vita fa, che la sera dovevo scegliere tra due parti in due zone diverse della città. Presenzialista come una star, quando c'è gente a leccarti il culo stai sicuro che tutto va, cosciente che il tempo è fermo e che non passerà. E mi sentivo tosto come Dio, ogni mia frase aveva io come soggetto e ancora io come complemento oggetto. Nessun difetto, ero perfetto e adesso all'inverso mi sento un cesso. Sarà il peso degli anni, non sembrano poi tanti. Ieri allo specchio spuntavano le rughe pure tra i capelli bianchi, magici istanti, come quando cominci a contare i contanti. E il cellulare, quando inizia a squillare, più di rado, è un segno da non sottovalutare. Se ne sei in grado, silenzio più malinconico di un fado. Desperato, con quel pensiero sempre in testa, me ne vado. Vorrei proprio sentire, quando mi chiuderanno in cassa, cosa cazzo di me staranno a dire. Se una goccia di rispetto, almeno in quel momento, da quelle bocche potrà mai uscire. E se ci pensi su, non sai neanche tu come è iniziata questa storia, non ricordi più. Sei il primo ad arrivare nel quartiere, l'ultimo a lasciare quel pezzo di marciapiede. E se ci pensi su, non sai neanche tu come è iniziata questa storia, non ricordi più. Sei il primo ad arrivare nel quartiere, l'ultimo a lasciare quel pezzo di marciapiede. Mille storie per mille paraculi e traffichini, tra gli attici con vista, case popolari e bottini, truffaldini compassati e destini tanto scuri e persi in quell'oblio che il senso di tutto sfugge pure a Dio. Chi c'ha i soldi e chi diventa criminale per il gusto del rischio e dell'illegale. Chi senza risorse si baccamena e a malapena mette insieme il pranzo con la cena. Chi sogna invece di essere una star mentre si alcolizza nell'ultimo dei bar. E se ci pensa su, non ricorda più com'è iniziata la sua storia. Diglielo tu, è il primo ad arrivare nel quartiere, l'ultimo a lasciare quel pezzo di marciapiede. E se ci pensi su, non sai neanche tu com'è iniziata questa storia, non ricordi più. Sei il primo ad arrivare nel quartiere, l'ultimo a lasciare quel pezzo di marciapiede. E se ci pensi su, non sai neanche tu com'è iniziata questa storia, non ricordi più. Sei il primo ad arrivare nel quartiere, l'ultimo a lasciare quel pezzo di marciapiede. Sembra rusta.